cartoline per Copenaghen. Amar nam Jalaluddin Shah, amar boyos 63 anni a combattere il fiume che divora la terra. Jalaluddin Shah è l'involontario Don Chisciotte del Bengala, agricoltore e insegnante alla scuola elementare dell'isola di Musuni, la più occidentale delle Sundarbans. In 30 anni ha ricostruito per 3 volte la sua casa mentre il terreno veniva divorato dall'acqua. Pollice dopo pollice, la terra scivola nel delta, tra il fiume e il mare, racconta Jalaluddin. Le piogge sono irregolari e più violente. Quando i cicloni ci colpiscono, veniamo inondati per giorni interi e ci troviamo sospesi tra la vita e la morte. Gli argini vengono sollevati continuamente, ma ormai sappiamo che non garantiscono sicurezza. Quando l'acqua si ritira, non solo ha distrutto i raccolti, ma ha avvelenato la terra e poi, proprio mentre c'è acqua ovunque, noi non abbiamo acqua da bere. Cambia anche la foresta di mangrovie, osserva il maestro, quella in cui si nasconde la tigre. Il fiume in questi anni sembra cedere al mare e Jalaluddin ha comunque deciso di resistere. Quando la mia casa è stata distrutta per la seconda volta, mi sono allontanato dalla costa. La terza l'ho costruita al centro dell'isola, 1 chilometro dall'acqua, e poi staremo a vedere.